Allora, Franco, adesso facciamo la versione bonsai del testamento del capitano. Domani? No, adesso facciamo la versione bonsai, perché quella vecchia è superata, hai capito, Franchino? Adesso le guerre già sono bonsai. Hai visto l'ultima? Track, le fanno su appuntamento. Non so, ti ricordi Bush che diceva «Mi raccomando, l'ultimatum scade il 17, il 18 mattina facciamo l'invasione». «Il 7:30». No, l'orario non l'aveva detto, Franco. Poi c'è questa operazioncina chirurgica, hai capito, Franchino? «Orau!» No, la guerra è chiamata così, operazione chirurgica, perché è breve. «Orau!» Vabbè, per esempio, tu prendi il testo vecchio, non è più al passo con i tempi, è troppo pessimista. Non so se te lo ricordi, faceva «Il capitano della compagnia è sferito e sta per morir, manda a dire ai suoi alpini che lo rivengano a ritrovare». «Domani!» Hai capito? Perché non c'era il telefono, c'era la staffetta. «E polpette!» No, la staffetta era un soldato che portava le notizie, hai capito? «E polpette!» E allora gli alpini ricevevano l'ordine del capitano e gli mandavano a dire al capitano che non avevano scarpe per camminare. Allora non andavano. Allora il capitano diceva alla staffetta: «No, tu devi andare a dirgli o con le scarpe o senza scarpe, i miei alpini li voglio qua». «Domani». Allora la staffetta andava, gli alpini finalmente andavano a trovarlo. Hai capito? Cioè una cosa da dirsi poteva stare in giro anche una settimana. Allora gli alpini dicevano: «Che cosa comanda, signor capitano? I suoi alpini sono arrivati». «Orau!» «No, io comando che il mio corpo in 5 pezzi sia tagliato». Allora diceva: «Il primo pezzo alla mia patria, il secondo al battaglione, il terzo alla mia mamma e il quarto alla mia bella, tu pensa». «Rissa?» No, non si chiamava così. «Il quarto alla mia bella». Indovina se c'era un tenente medico un po' stupido che pezzo gli mandava. «Luisa!» Invece la versione che ho fatto io, quella bonsai, è molto più positiva, hai capito? «Luisa!» No, adesso ti spiego. «7:30». No, Franco, polpette. Ascoltami. «Domani». Ascolta, te la faccio sentire così capisci prima, eh? «Domani». «Il capitano della compagnia è ferito e sta per morir e manda un fax ai suoi alpini con le istruzioni da eseguir. Se io morissi, che non è ancora detto, tanto è vero che il medico dice che se il cuore tiene scioglie la prognosi dopo domani, mi porterete qui al cimitero invece di spedirne a ognuno un pezzetto. È molto più logico che voi veniate qua. Anzi, no, sto bene.